e nell'albergo, dove avevo appuntamento con Senliupe e i suoi amici, e dove le feste, che stavano allora cominciando, attiravano molta gente dei dintorni e parecchi forestieri, c'era per l'appunto, mentre attraversavo direttamente il cortile aperto su rosseggianti cucine in cui si facevano girare polli sugli spiedi, si arrostivano porcellini e astici ancora vivi venivano gettati in quello che l'albergatore chiamava il fuoco eterno, un afflusso, degno di un censimento davanti a Betlemme, dipinto da qualche antico maestro fiammingo, di viaggiatori in arrivo che gremivano a gruppi il cortile e chiedevano al padrone o a uno dei suoi aiutanti, pronti a dirottarli se non li trovavano d'aspetto abbastanza rassicurante verso una sistemazione privata in città, di essere alloggiati e nutriti, mentre uno sguattero passava tenendo per il collo un volatile che si dibatteva. E nella grande sala da pranzo che avevo attraversata il primo giorno dirigendomi verso la saletta dove mi attendeva il mio amico, era anche lì a un banchetto del Vangelo, raffigurato con antico candore e con esagerazione fiamminga, che faceva pensare la quantità di pesci, di pollastre, di galli cedroni, di beccacce, di piccioni, tutti guarniti e fumanti, che camerieri affannati, scivolando sul parquet per fare più in fretta, deponevano su una mensola sterminata dove li si trinciava senza indugio, benché finissero, poiché su molti tavoli quando arrivavo io il pasto volgeva al termine, con l'ammucchiarsi inutilizzati, come se la loro abbondanza e la precipitazione di chi li accumulava rispondessero, assai più che alle richieste degli avventori, al rispetto del testo sacro, diligentemente ricalcato nella lettera, ma ingenuamente illustrato con dettagli realistici ispirati alla vita locale e allo scrupolo, estetico e religioso, di far balzare agli occhi lo splendore della festa grazie alla profusione delle vettovaglie e allo zelo dei servitori. Uno di costoro se ne stava sul fondo della sala, pensoso e immobile, accanto a una credenza, e per chiedere a lui, che sembrava l'unico abbastanza calmo per rispondermi in quale saletta avessero apparecchiato per noi, mi diressi con decisione, insinuandomi fra gli scaldavivande accesi qua e là per evitare che i piatti dei ritardatari si raffreddassero, anche se nel bel mezzo della sala i dessert poggiavano sulle mani di un enorme pupazzo torreggiante, avvolte sulle ali di un'anatra apparentemente di cristallo, in realtà di ghiaccio, cesellata ogni giorno con un ferro rovente e con gusto davvero fiammingo da un cuoco scultore, e a rischio di essere travolto dai suoi colleghi, mi diressi verso quel cameriere nel quale mi parve di riconoscere un personaggio tradizionale nei quadri di soggetto religioso, un personaggio che egli riproduceva scrupolosamente nella faccia camusa, ingenua e mal disegnata, e nell'espressione sognante, già in parte toccata dal presagio di una miracolosa presenza divina di cui gli altri non hanno ancora il minimo sospetto. Si aggiunga che, in ragione certo dell'imminenza delle feste, tale figurazione si arricchì di un supplemento celeste reclutato per intero tra un personale di cherubini e serafini. Un giovane angelo musicante, i cui biondi capelli facevano da cornice a un volto quattordicenne, non suonava, per la verità, nessuno strumento. Se ne stava trasognato davanti a un gong o una pila di piatti, mentre angeli meno infantili si affannavano per gli spazi smisurati della sala, sommuovendo nell'aria col fremito incessante dei tovaglioli che pendevano lungo i loro corpi come ali dalle punte aguzze dipinte da qualche primitivo. Fuggendo le incerte contrade, velate da una cortina di palme, dalle quali quei servitori celesti sbucavano dando da lontano l'impressione di provenire dall'Empireo, mi feci strada sino alla saletta dove era apparecchiata la tavola di Senliupe. Vi trovai alcuni suoi amici, che pranzavano sempre con lui, tutti nobili, tranne uno o due plebei, cui nobili, avendo fiutato in loro, sin dagli anni di scuola, dei possibili amici, si erano legati di buon grado, dimostrando così di non essere, in linea di principio, ostili ai borghesi, fossero anche repubblicani, a patto che avessero le mani pulite e andassero a messa. La prima volta, mentre stavamo per metterci a tavola, trascinai Saint-Loup in un angolo della saletta e in presenza di tutti gli altri, ma in modo che non ci sentissero, gli dissi: «Robert, il momento e il luogo non sono ben scelti, ma quello che devo dirvi è affare di un secondo. In caserma mi dimentico sempre di chiedervelo. È di Madame de Guermantes la fotografia che tenete sul tavolo?» «Certo, è la mia buona zia.» «Ma è vero, che sciocco, è vostra zia. Me l'avevate già detto, non ci pensavo più. Mio Dio, i vostri amici perderanno la pazienza. Finiamo in fretta il discorso. Ci stanno guardando, oppure un'altra volta, non ha importanza.» «Ma no, continuate, non chiedono che d'aspettarci.» «Nemmeno per sogno. Mi dispiacerebbe sembrare scortese. Sono così gentili. Del resto, sapete, non è che ci tenga più di tanto.» «La conoscete, quella cara Oriane?» Che dicesse «cara», così come aveva detto «buona», non significava affatto che Saint-Loup considerasse Madame de Guermantes particolarmente buona o cara. In casi del genere, cara, eccellente, buona, sono semplici rafforzativi di quella, usato per designare una persona che entrambi gli interlocutori conoscono, ma di cui il primo non sa bene cosa dire al secondo se questi non appartiene alla stessa intima cerchia. Cara, fungendo da antipasto, consente di indugiare quel tanto che basta a trovare: «La vedete spesso?» o «Sono mesi che non la vedo» o «La vedrò martedì» o «Non deve essere più tanto giovane ormai». Non so dirvi quanto mi rallegri che sia proprio la sua fotografia, perché abitiamo adesso nella stessa casa e ho sentito dire sul suo conto delle cose incredibili. Sarei stato molto imbarazzato se avessi dovuto precisare quali, che mi hanno fatto nascere un grande interesse per lei da un punto di vista letterario, capite? Da un punto di vista, come dire, balzacchiano. Voi che siete così intelligenti, queste cose le capite al volo. Ma lasciamo perdere ora, chissà cosa penseranno i vostri amici della mia educazione.» «Ma non penseranno niente, assolutamente niente. Gli ho detto che siete sublime e sono molto più intimiditi loro di voi.» «Siete troppo gentile. Comunque, ecco, Madame de Guermantes non sospetta che noi due ci conosciamo, vero?» «Non saprei. È dall'estate scorsa che non la vedo, perché non sono più venuto a Parigi in licenza da quando lei è tornata.» «Bene, vi dirò, mi hanno assicurato che mi ritiene un perfetto imbecille.» «Ma questo non mi sembra verosimile. Oriane non sarà un'aquila, ma non è nemmeno stupida.» «In generale, sapete, non ci tengo affatto, non avendo il minimo amor proprio, che diciate in pubblico le buone cose che pensate di me. Anzi, mi dispiace che ne abbiate dette di così lusinghiere ai vostri amici. Li raggiungeremo fra 2 secondi. Ma nel caso di Madame de Guermantes, se poteste esprimerle, magari esagerando un po', la vostra opinione sul mio conto, mi fareste un grande favore.» «Volentierissimo, se tutto quel che dovete chiedermi non sarà certo difficile. Ma che importanza può avere? Ditemi quello che Oriane pensa di voi. Ve ne infischierete solennemente, suppongo. Comunque, se non si tratta che di questo, possiamo parlarne benissimo davanti a tutti, oppure quando resteremo soli, perché temo che vi stanchiate a parlare così scomodamente in piedi, mentre abbiamo tante occasioni di vederci a 4 occhi. Era stata proprio quella scomodità a farmi trovare il coraggio di parlare a Robert. Per me, la presenza degli altri era un pretesto che mi autorizzava a imprimere al discorso un andamento rapido e convulso, grazie al quale potevo più agevolmente dissimulare la menzogna detta al mio amico quando avevo finto di non ricordare la sua parentela con la duchessa e non lasciargli il tempo di farmi, sui motivi che mi spingevano a desiderare che Madame de Guermantes mi sapesse amico suo, intelligente, eccetera, domande che mi avrebbero tanto più turbato in quanto non sarei stato in grado di rispondere. «Robert, mi meraviglio, voi così intelligente, Possibile che non capiate come una cosa che fa piacere a un amico non si debba discuterla ma farla? Io, qualsiasi cosa pensaste di chiedermi, e ci terrei molto che lo faceste, non vi chiederei spiegazioni, ve lo garantisco. Vado più in là di ciò che desidero. Non ci tengo a conoscere Madame de Guermantes, ma avrei dovuto, per mettervi alla prova, dirvi che desideravo pranzare con Madame de Guermantes e so che non l'avreste fatto. Non solo l'avrei fatto, ma lo farò. E quando? Appena verrò a Parigi, sicuramente entro una ventina di giorni. Vedremo se lei lo vorrà. Inutile dirvi quanto vi sono grato. Ma no, non è nulla. Al contrario, è una cosa straordinaria perché mi dimostra quale amico voi siate per me. Che quel che vi chiedo sia importante o no, sgradevole o no, che io ci tenga davvero soltanto per mettervi alla prova, non è questo che conta. Dicendo che lo farete, rivelate la finezza della vostra intelligenza e del vostro cuore. Un amico sciocco si sarebbe messo a discutere. Era per l'appunto ciò che aveva fatto Saint-Loup. Ma forse volevo lusingare il suo amor proprio, o forse ero sincero, giacché la sola unità di misura del merito altrui consisteva ai miei occhi nell'eventuale utilità in rapporto all'unica cosa che mi sembrasse importante, il mio amore. Poi, un po' per doppiezza, un po' per un autentico sovrappiù di tenerezza prodotto dalla riconoscenza, dall'interesse e da tutto ciò che la natura aveva immesso di simile nei tratti di Madame de Guermantes e in quello di suo nipote Robert, aggiunsi: «Ma ora dobbiamo raggiungere gli altri, ed ecco che io vi ho chiesto solo una delle due cose, la meno importante. L'altra per me lo è molto di più, ma ho paura che me la neghiate. Vi dispiacerebbe se ci dessimo del tu?» «Eh? Dispiacermi? Andiamo! Gioia, pianti di gioia, felicità infinita!» «Ah, come vi sono, come ti sono grato! Quando vi deciderete anche voi? Mi fa talmente piacere che potete benissimo lasciar perdere con Madame de Guermantes. Il tu mi basta. Si faranno tutte e due le cose.» «Robert», disse a Saint-Loup un po' più tardi durante il pranzo, «Robert, è talmente comica questa conversazione a pezzi e bocconi, e chissà perché poi, volevo dirvi, quella signora di cui vi ho parlato, sapete? Certo! Sapete a chi mi riferisco? Ma andiamo, mi prendete per un cretino del Vallese, per un ritardato mentale. Non potreste darmi la sua fotografia? La mia intenzione era semplicemente di chiedergliela in prestito, ma al momento di parlare provai un senso di timidezza. La mia domanda mi parve indiscreta e per non darlo a vedere la formulai più brutalmente aumentandone la portata, come se si fosse trattato di una cosa affatto naturale. Prima dovrei chiederle il permesso, mi rispose Saint-Loup, e subito arrossì. Mi resi conto che mi nascondeva in parte il suo pensiero, che mi attribuiva lo stesso atteggiamento, che avrebbe servito il mio amore soltanto a metà, con la riserva di determinati principi morali, e lo detestai. Mi commuoveva, tuttavia, vedere come Saint-Loup si mostrasse diverso nei miei confronti quando non eravamo più soli ma in compagnia dei suoi amici. La sua maggiore cortesia mi avrebbe lasciato indifferente se mi fosse parsa voluta, ma la sentivo involontaria e fatta solo di tutto ciò che, sicuramente, diceva di me quando non c'ero e taceva quando eravamo soli. Nei nostri incontri a quattro occhi intuivo, certo, il piacere che gli derivava dal conversare con me, ma era un piacere che rimaneva quasi sempre inespresso. Adesso, invece, gli stessi miei discorsi, che di solito gustava senza farlo notare, controllava con la coda dell'occhio se producessero nei suoi amici l'effetto sul quale aveva contato, corrispondente al preannuncio che ne aveva dato. La madre di una debuttante non avrebbe seguito con attenzione più trepidante le battute di sua figlia e le reazioni del pubblico. Se dicevo una frase brillante di cui, da solo con me, si sarebbe limitato a sorridere, era colto dal timore che non l'avessero ben afferrata e interveniva «Come, come?» per farmela ripetere, perché si creasse la dovuta attenzione e subito, volgendosi verso gli altri e facendosi senza volerlo, con un semplice sguardo e un sorriso, sollecitatore della loro ilarità, mi manifestava per la prima volta l'idea che aveva di me e che già in molte occasioni doveva aver espressa ai suoi amici. In tal modo mi trovavo di colpo a vedere me stesso dal di fuori, come uno che legge il suo nome sul giornale o scorga la sua immagine in uno specchio. Una di quelle sere mi venne da raccontare una storia abbastanza comica su Madame Blandet, ma istantaneamente mi interruppi ricordando che Saint-Loup la conosceva già e che quando il giorno successivo al mio arrivo avevo cominciato a dirgliela, mi aveva fermato dicendo «Me l'avete già raccontata a Balbec». Mi stupì dunque che questa volta mi esortasse a continuare dichiarando che non la conosceva e che l'avrebbe certo divertito. Replicai «Avete una piccola amnesia, ve ne ricorderete subito». «Ma no, ti giuro che stai confondendo, non me l'hai mai raccontata, va avanti!» E durante l'intero racconto seguitò a lanciare occhiate estasiate e febbrili ora a me, ora ai suoi colleghi. Solo quando, fra le risate generali, giunsi alla fine, capì che si era avvalso di quella storia per dare ai suoi compagni un'idea grandiosa del mio humor e che per questo aveva finto di non conoscerla. Così è l'amicizia.